Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, per quello che riguarda il Fondo Monetario Internazionale, vedo già dei messaggi, ce ne occuperemo nella seconda ora del programma. C'è stato infatti il giudizio, tra virgolette, del Fondo Monetario Internazionale anche sull'Italia, non è che lo dia solo sull'Italia, ha rivisto la stima sulla crescita italiana al rialzo, ma la definisce comunque una ripresa modesta all'1,1%. Restano anche per l'Italia i rischi che valgono per tutti gli altri paesi dell'area euro di un eventuale Brexit, quindi l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, e anche dell'emergenza immigrazione. La produzione industriale italiana potrebbe tornare con questi tassi di crescita a livello pre-crisi solo nel 2020, verso la metà del 2020, questo guardando il percorso di crescita intrapreso dall'Italia. E poi cita le banche italiane che sono sottoposte a una dura prova, ossia servono ulteriori sforzi sugli NPL, così non performing loans, ossia i crediti inesigibili, le sofferenze bancarie. Occorre non compromettere il percorso di sostenibilità delle pensioni. Per tagliare il cuneo fiscale, su cui oggi è tornato il Presidente del Consiglio Renzi, ha detto il Fondo Monetario, occorre ripristinare la tassa sugli immobili e ampliare, diciamo, le basi imponibili, ma anche rivedere la spesa sociale. Il debito italiano migliora ma resta vulnerabile, devono aumentare le privatizzazioni. E a meno che le autorità non dovessero riuscire a dare impulso alla crescita potenziale, l'attuale rilassamento del 2016 comporterebbe il rischio di una futura restrizione fiscale prociclica. Insomma, sostanzialmente dice attenzione, perché se i conti non vengono controllati bene nel 2016 c'è il rischio di una stretta futura. Di questo parleremo, nel senso che appunto è intervenuto anche il Presidente del Consiglio, ma il Fondo Monetario ha concluso la sua ispezione, chiamiamola così, sull'Italia, nel senso la sua missione per quello che riguarda il nostro Paese. Per quello che riguarda invece altre notizie, a partire dalla Borsa, oggi a Milano perde parecchio, nel senso che perde parecchio anche e soprattutto in confronto con le altre borse europee. Parigi cede 0,5 punto percentuale, Francoforte lo 0,60%, Londra -0,30%, Milano fa -2,35%. Che cosa butta giù la Piazza Affari rispetto alle altre borse europee? Alcuni titoli, in particolare Intesa San Paolo, che oggi vede una correzione pesante, -5,60%, Unipolsai -8,40%, Snam -4,70%, UBI Banca -4,5%, Popolare Emilia Romagna -4,5%, e Fiat Chrysler -4,30%. Ce ne occuperemo, perché da questo punto di vista c'è una vicenda di Fiat Chrysler. Attenzione però che oggi si staccano anche molte cedole, e quindi prima che qualcuno me lo scriva ve lo sto dicendo: lo stacco della cedola influisce sull'indice, e quindi se si andasse a vedere pesa circa per il 2%, per cui c'è un effetto stacco cedole che riporterebbe Milano su un livello simile a quello delle borse europee, e che riguarda alcuni dei titoli citati, non Fiat Chrysler, su cui avremo un approfondimento, ma sicuramente Unipolsai, Intesa San Paolo, Snam, Popolare Emilia Romagna e UBI Banca, ma anche staccano cedole Eni, che perde il 3%, Pop Milano, Unipol, Generali Assicurazioni, e oggi sono una marea le società che staccano cedole: Mediaset che perde lo 0,80%, Luxottica che perde l'1,20%, stacca la cedola, Moncler -1,40%, idem come Campari -1,60%, Ferrari -1,80%, Tenaris -1,90% e Atlantia -2%. Non stacca invece la cedola Fiat, ed è per questo che ce ne occuperemo. Ci sono indiscrezioni di un possibile Dieselgate che scoppierebbe però in Germania e che potrebbe riguardare anche i modelli Fiat, una cosa un po' singolare, ma ne parleremo. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, 349-238-6666 è anche il numero per WhatsApp. Rapidamente le altre notizie in breve. Sì, tra l'altro oggi ragioneremo anche a inizio settimana della riforma della pubblica amministrazione, ma non solo della riforma Madia, perché domani inizia l'appuntamento più importante in Italia per la pubblica amministrazione e per le sfide che attendono la pubblica amministrazione, che non vuol dire solo quella centrale. Si chiama Forum PA, è la 27esima edizione, ne parleremo fra poco con il presidente, per capire quali sono le sfide. So che alcuni potrebbero sorridere ascoltando la classifica di Focus Economia ogni venerdì proprio sugli sprechi della pubblica amministrazione, però ci sono alcuni elementi importanti, per cui faccio l'esempio su tutti: il Freedom of Information Act. Dice che cavolo è, e praticamente lo scorso 16 maggio è stata approvata in via definitiva la versione italiana per cui il cittadino che fa domanda di accesso a un atto o a un documento della pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione deve fornire quell'atto entro 30 giorni. Se non lo fa, deve motivare la decisione. Perché adesso il meccanismo era l'opposto, era a vantaggio della pubblica amministrazione, perché se c'era un silenzio c'era un rigetto automatico senza obbligo di motivazione. Sembra un dettaglio, ma non è così, e vedremo poi chi riuscirà ad adeguarsi a questo. Partiamo come sempre dall'economia internazionale. A questo punto è ufficiale l'offerta della Bayer per il colosso farmaceutico Monsanto: 62 miliardi di dollari in contanti, quindi non c'è carta su carta. Potrebbe essere la maggiore acquisizione dei 150 anni di storia della Bayer. Le speculazioni degli ultimi giorni avevano fatto molto muovere il titolo. Sono 122 dollari per azione quello che offre Bayer a Monsanto. Praticamente offre un premio sul titolo Monsanto del 32%, visto che il valore dell'azione negli ultimi giorni era intorno ai 89-90 dollari ad azione. Però si accollerebbe anche il debito netto della Monsanto di 9 miliardi di dollari. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Praterotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. La Bayer offre 62 miliardi di dollari per la Monsanto. Altri due colossi del settore farmaceutico mondiale, quelle società che fanno centinaia di miliardi di dollari vendendo farmaci e vaccini in tutto il mondo, hanno deciso di unirsi. La notizia non è di poco conto, non soltanto perché è la 20ª fusione che viene annunciata negli ultimi 10 anni nel settore farmaceutico, ma soprattutto perché questo processo di concentrazione sta rivoluzionando un po' non soltanto il modo di commercializzare i farmaci, ma soprattutto il modo di produrli. La grande concorrenza nel settore farmaceutico è quella che ha garantito finora non soltanto la concorrenza sui farmaci, svilupparne di nuovi e che funzionano meglio, ma soprattutto la possibilità per alcune società di investire su quelle malattie o sulla cura di quelle malattie, diciamo così, di nicchia, su cui alle grandi società non conviene investire. Insomma, la concentrazione fa sicuramente bene alle imprese e in qualche modo fa bene agli investitori, ma quanto farà bene alla collettività sapere che ci sono sempre meno imprese farmaceutiche che si occupano di cercare quelle cure che sul grande mercato non sono disponibili? Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. E restando in tema di economia internazionale, la Russia ha stimato oggi che ammonti a 9 miliardi e 300 milioni di dollari il danno per gli esportatori occidentali a causa delle controsanzioni introdotte da Mosca dopo la vicenda delle sanzioni statunitensi e dell'Unione Europea decise all'indomani della crisi ucraina. Faccio notare che il 17-18 giugno, Radio 24 lo seguirà, a San Pietroburgo vi sarà un forum importantissimo sui rapporti commerciali in cui l'Italia sarà ospite d'onore, e quindi con le sue aziende, con i suoi comparti alimentare, legno arredo e non solo. E avremo anche degli speciali su questo, perché per carità nessuno vuole entrare nella vicenda ucraina, ma è noto, l'abbiamo spiegato in tutti i modi possibili, che l'Italia, a differenza anche della Germania, che nel frattempo il suo Nord Stream se l'è fatto o se lo sta facendo, sia stata tra i paesi europei quello forse più penalizzato in assoluto, proprio per l'interscambio commerciale che avevamo con la Russia, proprio sui prodotti di eccellenza, proprio sui prodotti della fascia alta del nostro Made in Italy. Per cui insomma è diverso ragionare su quello che esportava, con massimo rispetto, alla Spagna verso la Russia, o il Portogallo verso la Russia, la stessa Francia, rispetto alle esportazioni italiane, che riguardavano non una, due, tre aziende, ma centinaia di imprese di medie dimensioni, soprattutto nei comparti che ricordavo. Vabbè, ormai sulla Brexit, ma bisogna abituarsi, si arriverà sempre più a dichiarazioni forti. Oggi sia David Cameron che George Osborne, quindi primo ministro e ministro dell'economia, cancelliere o scacchiere, hanno insistito: se davvero la Gran Bretagna dovesse uscire dall'Unione Europea, per l'economia dell'isola sarebbe uno shock con un periodo di recessione prolungata dietro l'angolo. Entrambi stanno cavalcando un rapporto a tinte fosche redatto dai tecnici del tesoro britannico. Secondo il rapporto, ripreso anche dal Financial Times, il divorzio da Bruxelles potrebbe avere un impatto immediato sulla crescita dell'economia britannica, nell'ordine di un meno 3,6% e un calo fino a 6 punti percentuali di PIL. Solo obiezione, questo è terrorismo per fare in modo che non si voti l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Faccio notare che, come ricordato anche dai nostri GR24, gli impatti poi vi sarebbero a catena e a cascata su tutti i paesi, perché oggi è apparso il conto per esempio di quanto costerebbe ai nuovi studenti italiani che volessero recarsi in Gran Bretagna studiare, ma soprattutto quello che riguarderebbe anche gli investimenti delle multinazionali in Gran Bretagna e il ruolo della City come perno finanziario, uno dei perni finanziari mondiali, e soprattutto chiaramente a livello europeo. Nel frattempo in Germania, la Germania va a elezioni nel 2017 ad aprile, un sondaggio ancora prematuro per carità, però realizzato per il quotidiano economico finanziario tedesco Handelsblatt, realizzato dall'istituto Forsa, sostiene che solo il 44% dei tedeschi si augura oggi che Angela Merkel resti cancelliera dopo le elezioni del 2017, il 60% è contrario all'accordo Unione Europea-Turchia, che è il pilastro della politica sui profughi di Angela Merkel, tra l'altro una percentuale del 70% è comunque scettica sul patto dentro il Partito Cristiano Bavarese, quello legato alla CDU della cancelliera Merkel, la CSU. Questo nel giorno in cui Angela Merkel incontra in questi minuti a Istanbul il presidente turco Erdogan. Buone le notizie invece sulla Grecia, perché gli interessi sui BTP greci a 10 anni toccano il minimo da 6 mesi a questa parte, cioè rendono il 7%, è un livello altissimo ma è il più basso dal novembre dell'anno scorso, dopo che il Parlamento greco ha approvato il nuovo pacchetto di misure di austerità con 152 voti a favore, che danno il via libera a una nuova tranche di aiuti da 5 miliardi e mezzo, almeno 5 miliardi e mezzo, e mettono in campo anche un meccanismo di correzione dei conti nel caso la Grecia deviasse dall'obiettivo. L'obiettivo è avere un avanzo primario, quindi la differenza tra entrate e uscite al netto degli interessi sul debito, intorno al 3,5%. Le misure predisposte aumentano l'IVA dal 23 al 24% su molti prodotti in Grecia, tra cui sigarette, pay TV, beni di lusso, caffè. C'è tra l'altro anche l'introduzione di una tassa di soggiorno, vengono abolite le agevolazioni fiscali per le isole greche, ancora viene creata un'autorità indipendente sulle entrate per contrastare la contraffazione e l'evasione fiscale, e aumentano le accise sui carburanti. L'impegno sull'avanzo primario al 3,5% è fissato per il 2018. E poco fa è uscita un'agenzia in questi istanti, perché insiste il Fondo Monetario Internazionale sull'alleggerire il debito greco. Scrive infatti in questo momento il Fondo Monetario: alla Grecia serve un alleggerimento del debito senza condizioni e in anticipo. Legato agli obiettivi del programma, e quindi non può essere esteso al di là della durata del programma. però occorre ristrutturare il debito greco per offrire un segnale forte e credibile ai mercati sull'impegno dei creditori e assicurarne la stabilità. L'abbiamo già commentato la settimana scorsa, il Fondo Monetario è molto più keynesiano della Germania e dice: attenzione, è irrealistico quanto state chiedendo alla Grecia come rientro sul debito. Occorre una moratoria fino al 2040, occorre rendere realistico gli obiettivi, altrimenti nessuno si fiderà e vi porterete avanti questa vulnerabilità, questa crisi greca nei prossimi anni. Devo dire, io personalmente condivido al 100% questo approccio, perché è inutile strangolare il creditore, è meglio mantenerlo in vita e fare in modo che paghi quello che riesce effettivamente a pagare. Ma è molto netto di nuovo il Fondo Monetario su questo. Ultima notizia per quello che riguarda Moscovici, il commissario europeo ha parlato di Italia oggi perché ha detto: con l'Italia il rapporto si è pacificato ed è fiducioso, non c'erano elementi non c'era materiale per una procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia, lo dicono le cifre. Bruxelles ha lodato l'efficacia delle riforme italiane e il fatto che il governo abbia preso degli impegni su cui è fissato un nuovo appuntamento con Bruxelles in autunno. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Iniziamo a parlare della pubblica amministrazione, visto che domani appunto apre i battenti la 27esima edizione del forum della pubblica amministrazione, 150 eventi, e poi chiude giovedì l'intervento anche del ministro dell'economia e delle finanze Piercarlo Padoan, che andrà a concludere, se ho ben capito, l'appuntamento verso una pubblica amministrazione 4.0 in un'economia 4.0. Al di là del 4.0, a me basterebbe anche una pubblica amministrazione 2.0, 3.0, cioè insomma riformata, e soprattutto su alcuni snodi cruciali. I just hope it ain't the money, money, money, money, money. Love me, honey. You got me singing Georgia. Allora, tra le macro aree fondamentali, nuovi modelli amministrativi per una società che cambia, lo Stato innovatore e il digital first, ossia diciamo, la cittadinanza digitale. Ci saranno anche altri interventi, quello del cosiddetto profeta della sharing economy Jeremy Rifkin, secondo me vende anche un po' di fumo però. E poi il 25, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Del Rio. E allora parliamo di pubblica amministrazione, non solo per la nostra classifica poco invidiabile del venerdì, con il presidente del forum della pubblica amministrazione Carlo Mocchi Sismondi. Buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Per una volta non vorrei parlare dell'efficienza dei dipendenti, anche se e del numero di dipendenti. Faccio notare che noi non abbiamo un problema di peso complessivo della pubblica amministrazione sul PIL, né di numero di dipendenti, abbiamo un problema di efficienza della pubblica amministrazione e di costi, per esempio i beni intermedi, le centrali di costo e quant'altro. Ora, certo che l'età sta invecchiando nella pubblica amministrazione, 15 anni fa l'età media era 43 anni e mezzo, ora siamo a quasi 50 anni. Meno di un dipendente su 1000 sotto i 25 anni contro i 5 su 100 in Francia o in Gran Bretagna, e gli over 50 nella pubblica amministrazione sono il 51%. La prima domanda, Mocchi Sismondi, è molto banale: come si fa a ragionare di pubblica amministrazione 4.0, digital first, con un'età anagraficamente così alta? Non si fa, lo dico subito, cioè è una precondizione. L'immissione di giovani e l'immissione di nuove professionalità è una condizio sine qua non perché l'innovazione non sia solo uno slogan da convegni. Si può fare, ci sono le condizioni, non si può fare a costo zero, bisogna decidere se vale la pena di farlo, in che modo vale la pena di farlo e cosa vuol dire svecchiare la pubblica amministrazione. Abbiamo un'amministrazione non solo vecchia ma piena di giuristi, perché quando l'abbiamo assunti ci servivano i giuristi. Adesso ci servirebbero gli economisti, ci servirebbero i project manager, ci servirebbero gli informatici, ci servirebbero i negoziatori, ci servirebbero gli esperti di rete, ma non ce li abbiamo perché ci abbiamo quegli altri che servivano quando facevamo adempimenti. Ora gli adempimenti servono molto meno, servono più queste altre cose e non sappiamo chi farli fare. In più manco li formiamo, abbiamo un terzo delle ore di formazione di cui può disporre un dipendente pubblico francese e un quarto di quello uno inglese. Quindi onestamente devo dire, ed era il primo consiglio che avevo dato a Marianna Madia quando è arrivata due anni e mezzo fa al Ministero, se non sblocchiamo il turnover e non cominciamo a far entrare giovani e professionalità nuove, l'innovazione è un ossimoro, non si può fare, semplicemente non si può fare. Però io ci conto. Mm-hmm. Allora, io una cosa volevo dire, intanto poi ne parliamo dopo il metodo e la pubblicità, però attenzione perché, ripeto, sui costi della pubblica amministrazione rispetto al PIL, gli 840 miliardi, la metà servono per le pensioni. La vera ciccia dove lavorare, a mio avviso, non sono neanche il numero di dipendenti, ma i 136... Un milione meno che in Francia ne abbiamo. No, infatti, ma i 136 miliardi di spese per beni intermedi. Cosa voglio dire? Voglio dire che è il famoso discorso per cui con 8.000 centrali appaltanti, che adesso il governo sta riducendo, si generavano sprechi sul costo della fotocopiatrice, il costo della flebo variava in maniera assolutamente così casuale, in realtà corruttiva. All'interno del paese. Però mi dica una cosa prima del meteo, Mocchi Sismondi. Il 16 maggio scorso, può sembrare un dettaglio, ma è stata approvata in via definitiva la versione italiana del Freedom of Information Act, il FOIA, che vuol dire appunto inverte, mentre prima io facevo domanda di un accesso a un atto, a un documento, e se tu non mi rispondevi vuol dire che c'era un rigetto in automatico. Adesso sei obbligato come pubblica amministrazione a rispondermi entro 30 giorni, se non lo fa motivi la decisione. Cosa cambia per noi cittadini o per noi imprenditori? Cambia moltissimo se siamo in grado di gestirla attraverso tre E. La E di empowerment dell'amministrazione, cioè l'amministrazione deve capire che questo prima di tutto è un cambiamento che deve fare al suo interno. Uno, i dati deve averceli chiari, per poterli dare ai cittadini deve averceli, quindi deve averli gli archivi ben fatti, le banche dati ben organizzate, le banche dati che si connettono una con l'altra. La seconda E è l'endorsement della politica, cioè ci deve credere veramente la politica, se no queste cose non si fanno. E il terzo è l'engagement dei cittadini. I cittadini non arrivano a fare queste cose semplicemente perché si svegliano la mattina e la massaia dice adesso voglio vedere quanto è costata questa strada. C'è un bisogno di un engagement, cioè di abituarli a interagire con i dati pubblici, che non è banale. Ma guardi, sul terzo aspetto, qui ognuno di noi si deve mettere la mano sulla coscienza, nel senso che poi quando tu vai a votare e certo, voti la pubblica amministrazione comunale, la pubblica amministrazione provinciale, se non ci sono più le regionali, e anche quella nazionale, beh, oltre che protestare, noi facciamo la classifica, così vai a chiedere al comune, alla provincia, alla regione, gli atti, quanto è costato l'asilo, quanto è costata la variante, quanto è costata la piscina, le varianti in corso d'opera soprattutto, no? Per capire. E lì uno deve anche un attimo assumere dei diritti di cittadinanza un po' più alti, se posso permettermi. Dopo il metro, però, vorrei capire da lei che cosa c'è di buono nella riforma Madia, o meglio vi aspettate che vi sia nei decreti attuativi, e che cosa invece è mancato, perché l'altro tema grosso che lei non ha citato è la responsabilizzazione anche dei dirigenti a cascata dei quadri, poi degli impiegati. Dopo il meteo, 349-238-6666 per sms, whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Aruba, soluzioni cloud per le imprese. Solo su www.cloud.it. Focus Economia. Georgia. 17:38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. La borsa ha chiuso meno 2,70%, leviamo il 2,20 di cedole, siamo in calo dello 0,5%, quindi in linea con il resto d'Europa. Parleremo di Unicredit, vedo molti messaggi come sempre durante la pausa, li riesco anche a leggere meglio sia su WhatsApp che sugli SMS che sul sito. Parleremo anche di Ghizzoni, insomma, non mai la voce più forte, che sia tutto fatto, c'è anche l'accordo sulla buona uscita. di ufficiale non c'è niente. Altra cosa è capire chi prenderà il posto di Ghizzoni come numero uno di Unicredit. Allora, presidente del forum della pubblica amministrazione Carlo Mocchi Sismondi, che cosa le piace o si auspica che arrivi nei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione Madia, anche in tema di responsabilizzazione, purtroppo è un tema a cui credo molto, e che cosa invece manca? Diciamo, la riforma Madia è una riforma molto ambiziosa, hanno fatto già 11 decreti delegati, ne dovranno uscire fuori un'altra decina, quindi è una delle più grandi riforme in termini che ci è stata mai fatta. Quattro grandi cose: digitalizzazione, semplificazione, pubblico impiego e responsabilità di dirigenza, come diceva lei, e riorganizzazione delle architetture, cioè come cambia, come facciamo a tagliare questi enti inutili che abbiamo sempre cercato di tagliare e non ci siamo mai riusciti. Mm-hmm. Su questo, parlando della dirigenza, direi che è la parte forse più importante e più innovativa della riforma Madia. Viene disaccoppiato il concetto di dirigente dal tuo status. Come un dirigente privato è dirigente finché dirige, al momento che non ha più un incarico di dirigenza smette di essere dirigente. Nello Stato eri, come dicevano i benedettini, semel abbas, semper abbas, eri abate per tutta la vita, dirigente per tutta la vita. Questo non è più possibile con la nuova riforma, la dirigenza è legata a un incarico specifico che dura 4 anni, massimo rinnovabile per altri 2 fino a 6, poi arriva a concorso. Bellissimo, porteremo a casa questo risultato? Non lo so, vedremo, perché c'è una grandissima lobby contraria ovviamente dei dirigenti pubblici. Quindi la prima cosa che spero è che questa cosa si riesca a portare a casa. Spero anche, però io sono convinto che le leggi sono un pezzo della riforma, non sono la riforma. Abilitano la riforma, abilitano il cambiamento, ma se vogliamo fare cambiamenti dobbiamo agire sui comportamenti e quindi dobbiamo accompagnare la riforma con un'azione di assistenza alla riforma, che vuol dire un change management. Nessuna grande organizzazione fa change management con un editto appeso addosso. Se devono cambiare i manager, la parte apicale, come si chiama in gergo, la loro testa e il loro modo di concepire il ruolo, non puoi solo farlo per decreto, perché certo. Vabbè, è importante, perché 4 anni più 2, massimo 6, poi torni a concorso, cambia radicalmente lo scenario. Il dirigente adesso nella pubblica amministrazione è un po' come il cavaliere del lavoro, il massimo rispetto, lo sai a vita, no? Una volta che hai beccato. Altra cosa è dire no, lo sai quando eserciti. Esatto. Però poi le dice: non è che fatta la legge abbiamo risolto tutto, con dirigenti, con l'età anagrafica che abbiamo visto, ahimè, non è colpa dei dipendenti o dei dirigenti. In questo caso è stato bloccato ogni assunzione, il famoso blocco del turnover. È chiaro che invecchia l'età, lo dico chi scrive, dei dipendenti. Però. Che cosa serve oltre alla legge? Quindi l'ho interrotta, Mocchi. Oltre alla legge serve accompagnare questa legge con manuali, basta norme, ne abbiamo anche troppe. Accompagniamo, una volta fatte le norme essenziali come questa, che introducono un nuovo paradigma, servono manuali e cassette degli attrezzi e persone in grado di andare a accompagnare le amministrazioni nel cambiamento. Questa parte qui di assistenza alla legge normalmente non si è mai fatta. Pensi a una legge di riforma così importante, non so, penso alla legge sulle province di Del Rio, una legge che io ritenevo un'ottima legge, abbandonata a se stessa da effetti perniciosi. Quindi non esiste una buona riforma e una cattiva riforma, esiste una buona riforma solo se non ci accontentiamo della legge, ma riusciamo a accompagnare il cambiamento con un sostegno costante, dando manuali e diciamo così, creando comunità di pratica, creando anche qualche sanzione, nel senso che il manuale va benissimo, certo. Poi il dirigente o la capisce o la capisce, non è che questo vale solo nel privato, certo, no, vale nel privato e vale anche nel pubblico. Tu sei un dirigente, l'hai capito che adesso vai 4 anni più 2 e poi arrivai a concorso, non l'hai capito, te lo facciamo capire col massimo rispetto, però non è che si possa neanche trattare, diciamo, i dirigenti come dei panda, mentre nel privato devi capire al volo, se no sei fuori. Assolutamente sì. Però mi dica gli altri 3 punti che mi interessavano, che le citavo. Gli altri punti sono il tempo della semplificazione, qui c'è una grande attenzione alla riduzione degli oneri amministrativi e per la prima volta la misuriamo, cioè quello che sta cambiando adesso è che invece di andare a sparare la cieca per aria con la speranza di prendere qualche uccellino, stiamo misurando esattamente quali sono gli oneri più costosi per le imprese, glielo stiamo chiedendo, c'è un'azione di concertazione molto importante con le parti sociali e questa situazione sta facendo un elenco degli oneri più pesanti e piano piano purtroppo non c'è una spada che taglia il nodo gordiano. Bisogna avere la pazienza di sciogliere nodo per nodo. E stiamo la parte semplificazione, stiamo sciogliendo effettivamente nodo per nodo. C'è nella riforma, e anche qui c'è bisogno di costanza nello sforzo. E dato che è uno sforzo non da poco, bisogna che non è che se cambia il governo o il ministro cambiamo, ricominciamo da capo, perché sennò non andiamo da nessuna parte. E gli altri due aspetti? Gli altri punti, digitalizzazione. Qui la cittadinanza digitale è senz'altro possibile, nuovi diritti per i cittadini attraverso il sistema pubblico di identità digitale, SPID, attraverso i nuovi sistemi di servizio. È senz'altro possibile se e solo se, uno, non ricopiamo, non andiamo a rifare ogni volta, a reinventare la ruota. Ci sono tante esperienze buone, non abbiamo né soldi né tempo per reinventare ogni volta le stesse cose. Andiamo a riusare, trasferire le innovazioni, far sì che se il comune di Y non ha fatto un buon progetto per il catasto, il comune di Z lo prenda e non ricominci da capo a cercare il fornitore, a fare le gare, a ritrovarne un altro. Ma come si fa a fare questo? Perché il comune Z, allora, può avere voglia di farlo da solo per dimostrare che lui è diverso, o peggio ancora in alcuni casi perché dietro si c'erano interessi. Come fai a farlo? Abbiamo due leve, una è quella finanziaria. Allora, la gran parte di questi soldi vengono da programmazione europea ormai, gran parte di questi soldi. Allora lì il rubinetto deve essere intelligente, deve essere capace di dire se tu fai una tua specializzazione che puoi proservire anche agli altri, bene, se tu fai rifare per la sesta volta una cosa che hanno fatto tutti i tuoi vicini di casa e ti crei un server che per prenderti, che usi magari un decimo della sua potenzialità, mentre quello vicino ce n'ha un altro vuoto lo stesso, io i soldi non te li do. Quindi la programmazione europea è una buona leva. E la seconda, secondo me, è la Consip. Dobbiamo lavorare in stretto contatto con la Consip, la centrale acquisti, e la centrale acquisti pubblica, quindi la centrale del Ministero del Tesoro, però a cui si devono riferire ormai tutte le amministrazioni. Perché il rischio non è solo quello che diceva lei, che compriamo da una parte a 100 e dall'altra a 1000, ma che compriamo a 100 magari roba che non ci serve, che non è compliant col piano generale. Certo. E quindi c'è una forte, perché c'è una carenza di efficienza, ma c'è anche a volte una carenza grave di efficacia. Dobbiamo avere un forte contatto tra chi fa la programmazione, chi fa gli acquisti e chi fa le pianificazioni negli enti locali. Solo mettendo insieme questi tre soggetti, la cittadinanza digitale non è uno slogan, ma diventa una cosa possibile. Allora, a chi mi dice, ma di cosa stai parlando, aria fritta, qualunquismo ed aria fritta, attenzione a una cosa, però, per carità, uno la può pensare come vuole, però come ci hanno spiegato tutti gli esperti che operano nel fare la spending review, penso in Gran Bretagna, sono italiani, se c'è una caratteristica della pubblica amministrazione, e a maggior ragione quando vuoi fare anche una revisione della spesa e avere una spesa più efficace oltre che più efficiente, non solo ridotta, non puoi pensare che tutto venga fatto in 2-3 mesi, cioè non è come una manovra di tagli. Se vuoi fare una cosa seria che regga, ci vuole un po' di tempo. Quindi il fatto che ci voglia un po' di tempo non vuol dire buttare via il tempo, anzi è dimostrato che quando fai tagli orizzontali e poi tu comprimi così tanto la spesa che dopo 1-2 anni, siccome le amministrazioni non reggono più, come un elastico si tornano a riallungarsi. Quindi tu non hai risparmiato nulla, hai risparmiato per 1-2 anni, ma poi i costi ti ritornano, perché tu non cambi. Se fai un taglio orizzontale, il problema dei governi precedenti che facevano tagli orizzontali, blocchi tutto, blocchi anche il macchinario che serve all'ospedale, il software che serve, e dopo un po' o quel meccanismo si blocca oppure ti richiedono di andare a ripianare i costi. Quindi il tempo in questo caso non è un dettaglio, se vuoi farla bene, non è buttare via tempo, è andare a intervenire sulle singole aree di competenza. Detto ciò, e ho capito benissimo anche il ruolo della Consip nel valutare questo e anche dello Stato centrale, ammettiamo che si riesca a fare tutto questo, cioè che ci sia una consapevolezza che la Consip esercita il suo ruolo, le amministrazioni locali capiscono che non gli arrivano più i soldi se fanno solo il duplicato, il duplicato, il duplicato e non risparmio. Tutto bene. Secondo lei sarà necessario a un certo momento arrivare allo sblocco del turnover, cioè a tornare ad assumere? Perché mi scrivono molti ascoltatori, guardate che ormai molti colleghi non sanno neanche usare un foglio Excel. Per carità, uno impara e non rompe le scatole anche se ha più di 50 anni. Però diciamocela tutta, i tassi degli altri paesi che ricordavo, da noi 1 su 1000 a 25 anni, nel resto è sotto i 25, in Francia sono 5 su 100, è sotto i 25, in Gran Bretagna pure, da lì bisogna tornare a ragionare, o no? Assolutamente sì, però proprio per poter ragionare di questo dobbiamo ragionare anche di che genere di professionalità ci servono, che perché e che è anche un, diciamo così, un piano strategico dell'innovazione. Su questo non c'è però non posso che essere perfettamente d'accordo con lei. Serve sbloccare il turnover, serve farlo con intelligenza, perché non ci serve di riaprire le assunzioni in massa di tutti, perché questo è un tempo di assistenzialismo che ha rovinato l'amministrazione, ha rovinato il paese. Non serve più quello, ma servono assunzioni mirate di nuove professionalità e di giovani. Ne bastano pochi, basterebbe dire i 10, vogliamo ogni anno 10.000, che vuole che siano 10.000? 10.000 giovani tra i migliori, perché gli offriamo la possibilità di trovare un lavoro e di essere utili al proprio paese. Io credo che sia veramente un grande concorso delle migliori intelligenze. Allora facciamo una cosa, siccome lei è molto bravo, non devo dirlo io, mi sono... fate il vostro forum, ci mancherebbe. Adesso la riforma Madia sta iniziando appunto a diventare operativa, a decreti attuativi. Risentiamoci ad ottobre, che sembra un tempo immenso, ma non lo è, per capire se questi meccanismi, la Consip già ha ridotto le centrali appaltanti, va detto, se questi meccanismi stanno implementando, questi gioco, cioè sono iniziati a partire sui dirigenti e quant'altro, sul merito. Se la lobby dei dirigenti fa la guerra oppure accetta che il mondo è cambiato anche per loro, se no, sai, uno può anche pensare a un rinnovo completo del parco dirigenti della pubblica amministrazione di questo paese, non ne frega niente. Se le resistenze sono così alte, uno deve anche ragionare alla guerra come alla guerra. Non è che possiamo bloccare il paese perché c'è qualche dirigente che non vuole accettare di non restare dirigente a vita, più di qualche. E poi rifacciamo il bilancio con lei verso ottobre, se le va bene, noi ci siamo, anche per capire. È una promessa, se mi chiamate vengo molto volentieri. Ah, non c'è problema, noi chiamiamo, ma non c'è bisogno che venga, può anche farla al telefono. Grazie al presidente del Forum Pubblica Amministrazione, Carlo Mochi Sismondi. Allora, chi scrive verranno assunti altri imbecilli, altri lo chiama. Guardate, però non si può ragionare così, cioè penso che tu non puoi neanche accettare un invecchiamento totale della pubblica amministrazione come quello che stiamo affrontando noi. Prima si inseriscono le clausole, gli elementi di merito, di controllo sui costi, con i conti, però poi devi anche deciderti, cioè la pubblica amministrazione, se deve diventare 4.0, 3.0, 2.0, deve anche vedere forze nuove. E smettiamola di dire di fare selezione inversa, cioè che una pubblica amministrazione deve arrivare solo il disperato, non è vero. Per cui questo, non usiamo l'ideologia per la pubblica amministrazione, serve a tutti la pubblica amministrazione, è una cosa che serve al pubblico e a tutto ciò che tocca il pubblico, ai privati che ne hanno un rapporto, no? Per cui insomma, non facciamo solo un discorso di brevi mano e di breve respiro. Comunque, traffico. Focus Economia. Sì, la teniamo tutto il giorno questa base nuova, così ci impratichiamo. Lo dico a chi mi sta scrivendo, ma sì, è una scelta anche questa. Non è una gran scelta, ma insomma è una scelta. Allora, la borsa al netto dello stacco cedole, chiedo a Paolo Paronetto, 2,20% più o meno pesa. Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. 2,20, no? 2,17 per la precisione. 2,17, sul FTSE 1000. Mamma mia, che precisi che siete, quindi meno 2,74%, sostanzialmente levando il 2,17 siamo un calo dello 0,57, benissimo. Che è in linea con il meno 0,66 di Parigi, meno 0,74 di Francoforte e meno 0,14 anche di Londra. No, lo dico perché formalmente il calo sarebbe del 2,70%. Una marea i titoli che staccavano cedole, poi li ricordo io con calma. Uno che non la staccava e invece è calato e basta, si chiama Fiat Chrysler, meno 4,40%. Sì, esattamente, il titolo ha perso terreno fin dall'avvio della giornata in seguito alle indiscrezioni pubblicate domenica, cioè ieri, dalla tedesca Bild, secondo la quale le autorità tedesche nutrirebbero sospetti sull'uso di software irregolari da parte di Fiat Chrysler per la misurazione delle emissioni inquinanti, insomma praticamente quanto fatto da Volkswagen. Si profila quindi un dieselgate per Fiat Chrysler, secondo le indiscrezioni della stampa tedesca, eventualità smentita da un portavoce di Fiat, che ha confermato che i veicoli del lingotto sono pienamente conformi alla normativa in vigore, ma che naturalmente ha gettato un po' di incertezza sul mercato, che ha penalizzato i titoli della società e di tutto il settore auto europeo, che ha chiuso la giornata con una delle performance peggiori. La variazione settoriale alla fine è stata dell'1,1% in negativo. Allora, gli altri titoli, ti ricordo, ma ripeto, c'è lo stacco cedola, Unipolsai meno 8,20, Intesa meno 6,14. Ma che senso ha leggere le percentuali oggi, visto che c'è lo stacco dividendo, Paolo, no? Sì, no, infatti... Lasciamo sì, stare, andiamo sui migliori. Più 0,70% Steam Microelectronics, Mediolanum più 0,50, Banco Popolare più 0,20, non staccavano cedola. Poste più 0,20, Telecom, leggo solo quelli che non staccavano la cedola. Più 0,18 Telecom, invariata A2A, Italcementi invariata, e poi CNH meno 0,50, Terna meno 0,70 come Fineco, e Prismian, Jux... meno 0,86%, Unicredit, ne parliamo fra un attimo, non staccava la cedola, ma ci sono altri temi, meno 3%, Exor meno 2,12%, e Fiat l'abbiamo detta. Paolo, visto che oggi praticamente l'80% del listino staccava la cedola, io ti saluto e ti ringrazio, domani avremo un collegamento più lungo, GR24, e poi invece parliamo del futuro dei vertici di Unicredit. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Giovanissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. State ascoltando un programma offerto da Aruba, soluzioni cloud per le imprese. Solo su www.cloud.it. Focus Economia. I just hope it ain't the money, money, money, money, money. Love me, honey. You got me singing Georgia. 18 e 8 minuti, riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Oh, ma alcuni piace questa nuova base, altri la criticano, vabbè, tanto cambiano, e cambiamo gli stacchi. Allora, dicevamo che in una giornata contraddistinta dallo stacco cedole, quindi insomma la maggior parte delle variazioni sono da questo falsate, ci sono due temi. Uno Fiat, l'abbiamo già toccato, l'altro si chiama Unicredit, ossia, diciamo, che cosa succederà, a questo punto le indiscrezioni sono molto molto forti, confermate, ai vertici di Unicredit, visto che tutti danno per quasi certe le dimissioni di Ghizzoni. Allora, senta, possiamo parlare di tutto in questo programma, però c'è chi insiste a scrivere messaggi, vuole i Pink Floyd, i Dire Straits, gli AC/DC, ho capito, andiamo avanti con la vita, andiamo avanti, bellissimi, grandissimi gruppi, però un programma, andiamo avanti, cerchiamo qualcosa di nuovo ogni tanto. Marco Ferrando, non è un problema di money, money, money, per usare la base che alcuni adorano, altri criticano, mi sembra che invece però sia completamente, o almeno tutti diano per scontato, che si sia quasi raggiunto un accordo con tra Unicredit e Ghizzoni per la sua uscita. Ma sì, l'impressione è un po' questa. Ah, scusami, tu sei a Madrid, perché sennò non si capisce perché. Tu sei a Madrid, dove appunto si è lo stesso Ghizzoni ha inaugurato la filiale iberica di Unicredit, prego. Sì, c'è stata questa giornata un po' surreale, nel senso che nel pieno di queste voci, anche di accelerando questa probabile uscita, c'era questo appuntamento fuori porta. In ogni modo, come dicevi, l'impressione è che si stia arrivando, diciamo, alla puntata finale. Domani c'è un consiglio di amministrazione, interpellato al riguardo, Ghizzoni ha detto che c'è la fiducia del CDA si andrà avanti e che i rapporti sono trasparenti, però insomma l'impressione è che proprio in nome di questa fiducia, di questa trasparenza, probabilmente domani si arriverà una richiesta di dimissioni che dovrebbe avvenire anche consensualmente. Insomma, diciamo che il clima sembra molto ghizzoniano, quindi abbastanza pacato. Il clima sembra molto, ti ho colto poco? Sì, scusatemi, sono in taxi. No, il clima sembra ghizzoniano, quindi molto pacato, molto tranquillo, però anche a giudicare dalle voci che circolano vicino agli azionisti, insomma, la volontà è quella di avviare un ricambio. Ecco. Un ricambio che non sarà immediato in ogni caso. E i motivi di questo ricambio, visto che molti ascoltatori chiedono ma che cosa è successo in Unicredit, e soprattutto i papabili. Mi sembra che sui papabili siamo ancora, diciamo, così alla rosa del tutto aleatoria di possibili sostituti di Ghizzoni in Unicredit. Sì, i nomi sono quelli che circolano ogni volta in cui libera un posto da banchiere di primo piano, diciamo così. Sui motivi, in realtà non è successo nulla, probabilmente il motivo è quello, nel senso che da un po' di mesi, da parecchi mesi, di fatto Unicredit è in una fase di semistallo, sia dal punto di vista soprattutto del capitale, che come sappiamo è uno degli aspetti fondamentali anche dal punto di vista della vigilanza. Quindi, se vogliamo, a Ghizzoni forse si rimprovera il fatto di non aver dato un particolare abbrivio alla banca, soprattutto in questi ultimi mesi, che se vogliamo è anche un po' la sua difesa, per cui lui dice: mi fate lavorare, si va avanti, forse non a velocità rapidissima, ma perlomeno senza ricorrere a misure straordinarie. Tradotto, aumento di capitale, perché se vogliamo un po' l'ombra che aleggia sullo sfondo è questa. L'analisi da mesi, anche in questo caso, si esercitano sulla necessità di aumenti che vanno dal minimo di 4-5 miliardi o massimo di 7-8. La presenza di Ghizzoni finora ha escluso questa possibilità. È chiaro che un cambio al vertice la renderebbe molto più sì, però voglio dire, l'aumento di capitale, ammesso e non concesso che dovesse esserci, andrebbe a penalizzare, se ben capisco, gli attuali azionisti. Per cui è un po' strano, adesso passami le battute, ma sembra un po' il tacchino che anticipa il Natale. Cioè, un aumento di capitale va a diluire la tua quota, devi metterci dei soldi. Sono gli attuali azionisti che spingono per un aumento di capitale. È tutto un tema molto caldo, nel senso che parliamo di azionisti che però sono molto diversi tra di loro, per cui ricordiamo abbiamo le fondazioni, abbiamo i fondi, certo, abbiamo i soci arabi di Abar, abbiamo alcuni soci privati, Caltagirone e Telvecchia, soci diversi con disponibilità diverse anche a livello di patrimonio. E questo potrebbe far sì che la scelta di nuovo amministratore delegato non sia immediata, nel senso che l'impressione è che gli azionisti siano concordi unicamente nel volere un ricambio, diciamo una discontinuità, sul tipo di discontinuità e quindi il nome che potrebbe arrivare con ammesse ambizioni, perché è chiaro che dietro ad alcuni dei nomi che si fanno ci può essere una gestione più di tipo conservativo, quindi magari nessun aumento minimo, dietro altri nomi invece è difficile non vedere un aumento di capitale anche grosso. L'impressione è che questi nodi non siano ancora stati sciolti, quindi il confronto fuori dalla banca tra gli azionisti, dentro i probabili cacciatori di teste, sarà abbastanza serrato e magari anche abbastanza lungo. Però anche tu confermi che insomma un conto è dire prendiamo un altro posto di Ghizzoni, altra cosa è capire cosa deve fare il nuovo, perché ripeto, sì, tra le posizioni degli Emirati Arabi col fondo Abar che hanno il 6,5% e le posizioni per esempio della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona che ha il 3,5% oppure Fondazione CRT che ha il 3,8 e via così, Carimonte il 3, Allianz il 2, ci sono distanze non da poco, Marco? Distanze non da poco, peraltro in un momento per il settore bancario in cui è difficile in assoluto sia raccogliere capitale sul mercato che fare utili, quindi l'impressione è che chiunque arriverà, se arriverà qualcuno come probabile, dovrà avere le idee molto chiare, un mandato molto chiaro da parte degli azionisti. Se no, diversamente sarà molto difficile superare questo stallo che ormai, come dicevamo, dura almeno da un anno, perché se vogliamo i primi segnali c'erano stati proprio un anno fa di questi tempi con l'assemblea, quando qualcuno ricorderà la lista di minoranza era andata in maggioranza in assemblea, sì. Che un segnale che diciamo in codice equivale un po' di mugugno da parte dei fondi. Allora, su questo devo dire che Ghizzoni oggi ha detto che non vuole commentare le cessioni, perché al di là dell'aumento di capitale, l'altro tema, l'abbiamo parlato la settimana scorsa, è l'ipotesi di cedere alcuni pezzi della banca, Fineco Bank, una su tutte, è stata quella più citata. Non ne vuole parlare Ghizzoni, la situazione non è così drammatica ed è definitivamente sotto controllo, ha detto sempre Ghizzoni da Madrid, e ha detto lavorerò con il Consiglio di Amministrazione finché c'è fiducia. Nel frattempo la Consob sta monitorando l'informativa al mercato rispetto a queste voci ed è pronta ad accendere un faro, il famoso faro della Consob, e qui mi fermo, non faccio commenti sulla vicenda. Grazie a Marco Ferrando in collegamento con noi da Madrid. Traffico, e poi andiamo invece sul Fondo Monetario, che giudica l'Italia come PIL, come debito, come progressi, come rischi e difficoltà, alla luce di un Premier che anche oggi è tornato a dire che sostanzialmente si stanno studiando una riduzione del cuneo fiscale e altre forme, diciamo, di defiscalizzazione, chiamiamolo in senso generico così, poi saremo più precisi dopo il traffico. Focus Economia. Allora, il Fondo Monetario Internazionale, che poco fa è tornato sulla Grecia, ha chiesto con forza, per quello che riguarda la Grecia, una moratoria sul debito, la chiamo così, ci capiamo tutti, una riduzione del debito senza condizioni, cioè serve un alleggerimento del debito e in anticipo, e tra l'altro la ristrutturazione del debito è essenziale, quindi vuole, il Fondo Monetario continua a spingere perché l'Europa, o meglio poi la Germania, accetti che tanto nei termini in cui abbiamo messo giù questa... il ripagamento del debito greco non reggerà e resterà sempre il malato d'Europa, quindi dice ristrutturato in maniera realistica, ragionevole, aumentando il periodo di tempo, magari con una moratoria sugli interessi. Poco fa ha detto serve per assicurare la sostenibilità del debito greco. Il Fondo Monetario propone di adottare un tasso di interesse fisso su livelli bassi per un periodo esteso che non superi l'1,5% fino al 2040, per cui dice permettiamo alla Grecia di raccogliere capitali, di ritornare poi i capitali raccolti con un tasso fisso dell'1,5%. Attualmente il BTP greco è vero che è sceso, ma è al 7,60% a 10 anni, in modo che la Grecia possa effettivamente ripagare il suo debito senza collassare su se stessa. Banalmente dal 2013 che diciamo questa cosa, rivolti veramente soprattutto alla Germania. Per la Germania sono le elezioni d'aprile. Comunque, Fondo Monetario oggi si è occupato anche dell'Italia, ha detto il PIL è leggermente più alto di quello che prevedevamo, l'1,1 invece che l'1%, è comunque un 10% in più di stima. Ci sono rischi a ribasso anche per l'Italia per l'eventuale uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea e dall'emergenza immigrazione. La produzione industriale italiana tornerà con questi tassi di crescita debole, modesta lo chiama come ripresa, tornerà ai livelli del pre-crisi solo nel 2020. Uno potrebbe aggiungere a quel punto chi se ne frega, perché se io nel 2020 sarò vivo come impresa, sarò già una cosa così diversa che anche se mi verrai a dire guarda che adesso hai il livello di produzione del 2007, tu dici sì, ma io sono un'altra cosa ormai. Ma detto ciò, i bilanci restano ancora vulnerabili per le imprese sulla crescita così debole, ma anche per lo Stato. Dice attenzione a non compromettere la sostenibilità della spesa pensionistica, e con un rilassamento dei conti nel 2016 ci sono i rischi di una manovra aggiuntiva nel 2017. E poi le banche, dice attenzione, occorre un ulteriore sforzo sulle sofferenze, sui crediti inesigibili, quelli che si chiamano non performing loans. Questo nel giorno in cui Renzi ha confermato che vuole dare un aiuto al ceto medio con i 14 miliardi di euro dell'Europa, della maggiore flessibilità. Controlleremo il debito e daremo una mano al ceto medio e ha detto però attenzione, gli 80 euro non sono la panacea di tutti i mali. Sentiamo Renzi sulla flessibilità e sugli 80 euro. L'Europa ci ha dato ragione, ci ha riconosciuto la flessibilità. Questa dovrà andare sempre di più a tenere sotto controllo il debito che da due anni è fermo al 132% del PIL, molto alto ma fermo, e dovrà contemporaneamente andare a dare una mano a chi? Alle famiglie e al ceto medio. Gli 80 euro non sono la panacea di tutti i mali, sono un atto di giustizia sociale verso chi prende meno. Una volta che restituiamo qualcosa al ceto medio, a chi sta peggio, è una cosa giusta. Poi Banca d'Italia dice che il 91% di questi 80 euro sono tornati a far crescere i consumi che per la prima volta in tre anni sono ripartiti. Dopodiché io ve la dico proprio in modo molto sintetico, sì. Non penserete mica che con gli 80 euro si riesca a far ripartire l'Italia, ma essere più giusti verso alcune persone sì. Allora, Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera. A te, come sempre, l'ingrato compito da un lato calare sulla realtà, diciamo, le dichiarazioni di programmatica della politica, perché il Fondo Monetario ci dice, sì, attenzione, ha fatto anche un plauso alle riforme del governo, devo dire che c'è proprio un passaggio in cui vengono elogiate le riforme messe in atto, però dice la ripresa resta modesta e i rischi sono orientati al ribasso, non per colpa solo dell'Italia, ma per la volatilità dei mercati finanziari, per la Gran Bretagna e per l'immigrazione. Quanto c'è di politico? Parliamoci chiaro, tanto insomma è iniziata la campagna per il referendum di ottobre, no? Questo l'hanno scritto tutti, non è che lo diciamo noi. Quanto c'è di politico inteso come elettorale e quanto c'è invece secondo te di fattibile nel fatto che Renzi continua a insistere su cuneo fiscale, IRPEF e ceto medio? Certamente c'è un dato di fondo che è l'insistenza del Presidente del Consiglio sulla necessità di abbassare le tasse. E questo è cosa, diciamo, sacrosanta. I problemi vengono sui modi, i tempi, le scelte. Come le abbassiamo queste tasse? Dove? Ora, negli ultimi giorni, è tornato il Presidente del Consiglio, è tornato a battere sul tema del cuneo fiscale, quindi di abbassare le tasse sui fattori produttivi. E questo credo che sia una strada che è largamente condivisa, non solo dal Fondo Monetario, che l'ha ripetuto oggi, ma anche dall'OCSE, ma anche dalla Commissione europea. Quindi questa è una strada su cui può tranquillamente, diciamo, batterla. Il problema è se assolutamente è vero che c'è. Aspetta, che chiedo in regia di sistemare il tuo microfono perché vai e vieni ogni tanto. Adesso vediamo se riescono a posizionare. Prego, Guido, scusami. Dico, il problema è di fare delle scelte e il problema è come trovare queste risorse per dare un colpo, non dico risolutivo, ma comunque importante sulla riduzione del cuneo fiscale. Sì, allora aggiungiamo però anche le promesse che vengono fatte dal lato della riduzione dell'IRPEF, dal fatto che comunque saranno disinnescate le clausole di salvaguardia fiscale che riguardano l'IVA. Dell'IVA. E beh, insomma, poi alla fine dovrà scegliere. Ora siamo, diciamo, sostanzialmente in campagna elettorale atipica, perché l'orizzonte non sono le elezioni politiche, almeno per il momento, ma è la il referendum di ottobre costituzionale, e quindi è evidente, diciamo, che c'è molta carne al fuoco. Devo dire che anche oggi però sempre il Fondo Monetario da un lato ha incoraggiato Renzi e dall'altro ha però detto, ad esempio, che dovrebbe tornare a spingere su, per quanto le tasse sugli immobili, cosa sappiamo. Sì, c'è un passaggio importante su questo, che il Fondo Monetario dice, bene, per ottenere gli obiettivi di bilancio, quelli concordati con l'Unione Europea, con Bruxelles, e creare un margine per abbassare in maniera significativa, cito testualmente, scusatemi, il cuneo fiscale, ancora elevato in Italia, e che è continuato a crescere, tra l'altro, potrebbe però questo richiedere difficili scelte politiche riguardanti possibilmente anche gli alti livelli di spesa sociale e l'introduzione di una moderna tassa sugli immobili, perché è importante non compromettere la sostenibilità del sistema pensionistico. Traduco, dice, vabbè, il cuneo fiscale, per carità, anche perché Bruxelles ha sempre detto una cosa simile, meglio ridurre le tasse su chi lavora o chi produce che non le tasse sugli immobili. Però attento, se tu vuoi mantenere gli obiettivi di bilancio concordati, ridurre il cuneo fiscale, non puoi toccare il sistema pensionistico, non puoi compromettere la sostenibilità, e devi anche capire che dovrai fare delle scelte, le definisce difficili, cioè se reintroduci l'IMU devi spiegarlo poi. Questo lo dico perché, ed ecco, vorrei concludere su questo, Guido, con massimo rispetto per il Presidente del Consiglio, però se io dovessi fare la lista delle proposte arrivate nell'ultimo mese, siamo partiti con la flessibilità sulle pensioni, poi l'incentivo sulla parte delle pensioni più basse, poi adesso l'IRPEF. Ora, qui il fondo ci dice scegliete sapendo che qualcos'altro dovrete togliere. Ora, ecco perché io dico non c'è l'elemento elettorale, perché insomma tutto non riesce a fare, le pensioni non riesce a fare, la cosa non riesce a fare, l'IRPEF non riesce a farlo, l'IMU è già elevata. E allora? E allora appunto dovrà scegliere, però non pensiamo che questa scelta avverrà nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, perché ci aspetta una lunga stagione anche estiva in cui tutte queste proposte appena tu ricordato continueranno a frullare nel dibattito sulla politica economica del governo. Quindi arriveremo, diciamo, a settembre con la nota di variazione al bilancio, e quella sarà la sede che capirà meglio. Certo, non ci sono i soldi per fare tutto quello che ha prospettato il governo nelle ultime settimane. Sì, faccio notare anche una coincidenza temporale, Guido, cioè l'Europa ci vuole rivedere per, non è che ci abbia rimandato, ma vuole controllare che stiamo facendo quello che abbiamo detto tra fine novembre. Esatto, tra il 9 novembre, quindi dopo il referendum. Quindi, sai, io a pensare male si fa peccato, mi diceva Andreotti, ma ci si azzecca. Magari uno può dire delle cose che tanto poi magari rimodifichi quando a novembre vai dall'Europa, non so come spiegarti, non è prima del referendum, è dopo l'incontro con l'Europa. Beh, certo, anche perché tecnicamente noi approviamo la legge di stabilità entro il 15 di ottobre e entro quella data dobbiamo trasmetterla a Bruxelles. Probabilmente il 15 magari è la data proprio che coincide con il referendum, ma l'esame avviene dopo, quindi ci può anche essere ovviamente con una, soprattutto in un clima del genere, dove la Commissione non mi sembra che sia, diciamo, non propensa a fare dei compromessi anche di carattere, è vero, è più morbida, quindi si può discutere insomma ancora. Vabbè, balleremo da qua all'estate, almeno fino al DEF, come dicevi tu, ammesso che sia un DEF definitivo, definitivo e non DEF provvisorio. Grazie intanto a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.